Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io credo siamo giunti a un momento davvero cruciale, nel quale si giocano i destini non solo di una legislatura, ma del futuro dell'Italia. Sono pienamente consapevole dei pericoli che ci sono, ma il mio giudizio, lo voglio dire subito, è fiducioso e dobbiamo chiamare il Paese a ricostruire fiducia. Questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è l'esortazione del segretario del PD Zingaretti alla direzione oggi del Partito Democratico. È un momento cruciale, ha detto, dobbiamo chiamare il Paese a ricostruire un senso di fiducia, e vediamo se questo senso di fiducia, per esempio, può essere ricostruito dal piano di Vittorio Colao, il capo della task force per la ripartenza dell'Italia, no? Si è detto negli ultime settimane, ma dov'è Colao? C'è stata fatta anche dell'ironia. Oggi ha presentato questo piano in 6 macro settori, in 6 punti principali. All'inizio l'opposizione chiedeva che non fosse segreto, che fosse reso palese, trasparente, che fosse pubblicato, poi lo ha fatto. Sono uscite un sacco di anticipazioni, non sono riuscita a stare dietro neanche a tutti i punti, talmente tanti sono, ma approfondiremo tra poco. E poi più tardi la Forza Italia ha chiesto di rendere, insomma, che Colao sia presente in Parlamento a illustrare questo piano. Poi ci sono, dovrebbe essere in corso un vertice di maggioranza, dovrebbe iniziare a momenti, così come anche una riunione dei ministri dei 5 Stelle e poi anche dei leader del centrodestra. Insomma, diciamo che è una giornata molto molto vivace dal punto di vista politico, ma parleremo naturalmente anche di molte altre cose. Per i vostri messaggi, i vostri commenti, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i WhatsApp al 349 238 6666. Poi c'è il Twitter di Effetto Notte, oppure durante il giorno il Twitter è Roby con la Y, Roby, lineetta bassa, Giordano. Direi quindi di allacciare le cinture, che anche per questo primo giorno della settimana si parte. Risalgono i contagi, ma negli ultimi 7 giorni nessun caso e nessun decesso in 11 regioni. E nel mondo sono oltre 7 milioni i casi di contagio, di cui 2 milioni negli Stati Uniti, oltre 400.000 le vittime. Il piano di Colao per l'Italia, dal turismo alle imprese. L'obiettivo è un'Italia più forte, resiliente ed equa. E Di Maio firma un patto per l'export del Made in Italy. Il caso dei Camici, dalla Lombardia alla Procura di Milano, apre un fascicolo d'inchiesta. Stati Uniti, dopo 100 giorni, New York esce dal lockdown, ma Trump affonda nei sondaggi per la pandemia e la gestione delle proteste per la morte di George Floyd. Calcio verso la ripartenza di quello maschile, playoff e algoritmo per definire le classifiche con un nuovo stop dei campionati. Resta invece fermo il campionato femminile. Partiamo quindi come sempre dai dati sul coronavirus in Italia. Risale il numero dei contagi, attualmente i positivi sono sotto i 35.000, 0 decessi in 11 regioni. A livello nazionale oggi i malati sono 532 in meno di ieri e si registrano 65 decessi. Torna a salire il dato giornaliero complessivo dei contagi, con un incremento rispetto a ieri di 280 casi. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 194 in più, mentre ieri l'incremento era stato di 125 casi, e la percentuale dei positivi sul totale dei tamponi sale al 4,3%. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 7 le regioni con 0 nuovi casi: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Un solo nuovo contagio in 24 ore nel Veneto, in lieve risalita i casi della Toscana. Complessivamente l'Italia scende al 7° posto nella classifica mondiale dei paesi con il più alto numero di casi di infezione da SARS-CoV-2. L'ultima a superarla è stata l'India, dove i casi hanno subito un'impennata e il sistema sanitario è al collasso. In cima alla classifica mondiale ci sono gli Stati Uniti, con quasi 2 milioni di casi, seguiti da Brasile, Russia e Regno Unito. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo dell'indagine sierologica di cui si sta occupando la Croce Rossa, come sapete, per la quale è stato ospite qui Effetto Notte nei giorni scorsi il presidente nazionale Rocca. Per l'appello ai cittadini selezionati dall'Istat a rispondere al numero telefonico per fare il test sierologico per mappare la circolazione del coronavirus sul territorio italiano. Indagine che è partita 2 settimane fa, però oggi il vicepresidente nazionale Rosario Valastro ha detto che si aspettavano una maggiore adesione da parte di cittadini e cittadine, che quindi prorogheranno l'indagine sino a fine giugno. Ed è partita intanto oggi in Puglia, Abruzzo, Marche e Liguria la sperimentazione dell'app Immuni, che dovrebbe avvisare l'utente nel caso di un contatto a rischio con una persona risultata poi positiva al coronavirus. L'app è stata finora scaricata da 2 milioni di italiani e dovrebbe diventare operativa a livello nazionale a partire dal 15 giugno. E come fare invece a ripartire l'economia? Oggi è arrivato l'atteso piano di Colao, imprese e lavoro come motore dell'economia, infrastrutture e ambiente come volano del rilancio, turismo, arte e cultura come brand del paese, una pubblica amministrazione alleata dei cittadini e imprese, istruzione, ricerca e competenze come fattori chiave per lo sviluppo, individui e famiglia in una società più inclusiva ed equa. Sono questi i 6 macro settori e i 6 obiettivi del piano per la fase 3 che la task force di Vittorio Colao ha consegnato oggi a Conte. Un'Italia più forte, resiliente ed equa, questo è l'obiettivo centrale del rapporto e torneremo a parlarne tra poco. Così come anche del patto per l'export del Made in Italy lanciato oggi dal ministro degli esteri Di Maio. Dopo ci sarà modo di approfondire. Intanto però 500.000 di persone ha smesso di cercare lavoro, soprattutto tra le donne. Giù il PIL, attesa una ripresa nel 2021. Uno shock senza precedenti, con una caduta del PIL dell'8,3% nel 2020 e una parziale ripresa nel 2021, e quanto rileva l'Istat nelle prospettive per l'economia italiana, sottolineando l'impatto profondo dell'epidemia e dei provvedimenti di contenimento adottati dal governo. Quest'anno i consumi delle famiglie scenderanno di quasi il 9%, con un crollo di investimenti ed export. La disoccupazione calerà di oltre il 9% per effetto dell'incremento degli inattivi. Nei primi 4 mesi dell'anno, infatti, 500.000 persone hanno smesso di cercare lavoro, soprattutto tra le donne. Con la riapertura delle attività a maggio ci sono i primi segnali di ripresa. Il PIL, dopo una flessione nel secondo semestre, è previsto in aumento, spiega l'Istituto di Statistica. Dati che confermano le previsioni del governo e indicano una possibile ripresa nel terzo trimestre. Il commento del ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per quanto riguarda gli strumenti europei per l'economia, il Recovery Fund è decisivo, bisogna adottarlo velocemente, ha detto la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Il programma di acquisto titoli della BCE per l'emergenza pandemica è lo strumento più adeguato nel nostro arsenale per rafforzare l'impulso di politica monetaria, ha spiegato ancora Lagarde durante un'audizione virtuale al Parlamento europeo. Lagarde, che ha replicato così alle accuse di un eurodeputato fiammingo, non sono, ha detto, la regina del debito, ma piuttosto una persona che ha risposto prontamente a una crisi economica. All'estero, secondo gli ultimi dati elaborati dalla Johns Hopkins University, in tutto il mondo i casi sono oltre 7 milioni, i casi di contagio con oltre 400.000 morti. E secondo uno studio dell'Imperial College, pubblicato sulla rivista Nature, grazie a tutti questi mesi di lockdown in Europa si sono evitati più di 3 milioni di morti in 11 paesi europei, compresa l'Italia. Parliamo degli Stati Uniti. Nell'ultimo sondaggio della CNN sulla corsa presidenziale, nel pieno delle proteste per la morte di George Floyd, Joe Biden, il candidato democratico alle presidenziali, attacca il presidente americano Trump e lo stacca di 14 punti, un margine che non aveva mai avuto, e sono praticamente 55% e 41% rispettivamente, il livello più alto e più basso nelle rivelazioni della TV. Non solo, il 38% approva l'operato presidenziale di Trump, mentre il 57% lo boccia, ed è il peggior rating, quindi peggior rapporto insomma nei suoi confronti dalla quotazione di Trump dal gennaio 2019. Poi ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti perché sono molti gli aggiornamenti da fare. Di noi in Italia adesso. Per la cronaca, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo, al momento senza ipotesi di reato né indagati, sulla vicenda della fornitura di camici nel pieno dell'emergenza Covid da parte della Dama SPA, società di cui la moglie del presidente lombardo Attilio Fontana detiene una quota e che è gestita dal cognato. E ci sarà spazio per entrare più nel dettaglio anche di questo argomento. Scende in borsa il titolo di Assorin dopo la sentenza del TAR che ha annullato il contratto per la validazione del test sierologico. Si danneggia solo la ricerca con questa sentenza, protesta la Fondazione San Matteo di Pavia. Risorse pubbliche sono state usate con modalità illegittime per un interesse particolare. È per violazione della concorrenza che il TAR della Lombardia, accogliendo il ricorso di una società di Lodi, la Tecnogenetic, ha annullato l'accordo stipulato tra la Fondazione San Matteo di Pavia e la Diasorin per la validazione del test sierologico per il Covid. Ora gli atti sono stati inviati anche alla Procura della Corte dei Conti perché apparecchiature e conoscenze scientifiche, scrivono i giudici amministrativi, sono stati messi a disposizione per un interesse privato. L'accordo annullato prevedeva che Diasorin versasse una royalty dell'1% per tutti i test venduti nel mondo al San Matteo, che a sua volta avrebbe usato quei fondi per la ricerca. E l'unica conseguenza della sentenza ora è il danno per la ricerca, contesta il presidente della Fondazione Alessandro Venturi, che preannuncia ricorso al Consiglio di Stato. Una struttura pubblica rivalida un test di un'azienda privata che ha fatto lei, viene chiesto un corrispettivo immediato più una royalty sulle vendite. Battiamo la ricerca come se fosse la concessione di un bar che vende cornetti dentro un ospedale. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi è stato l'ultimo giorno di scuola tra flash mob, scioperi, polemiche e preoccupazioni per la riapertura a settembre. L'ultimo giorno di scuola a distanza si è consumato con i saluti in video fra insegnanti e studenti e anche con uno sciopero generale di tutto il personale per rimettere la scuola al centro delle priorità del paese. Francesco Sinopoli di CGL Scuola. Le priorità sono quelle di tornare a scuola in presenza, parlo in sicurezza per gli studenti e per il personale, si deve rispettare il distanziamento fisico, quindi c'è bisogno di ridurre il numero degli alunni per classe e aumentare gli organici. Alla scuola servono fondi e coraggio, ha detto Bonaccini, che guida l'Emilia Romagna ed è anche presidente della Conferenza delle Regioni. No al plexiglass, agli studenti nei box e altre cose del genere, ha dichiarato il presidente del Veneto Zaia, che chiede nuove linee guida alternative. Infine, non mancano le polemiche dopo che Claudio Ticci, consigliere comunale della Lega di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, ha paragonato su Facebook la scuola ad Auschwitz. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito dei paventati box di plexiglass in classe, sentiamo poco fa cosa ha detto la ministra dell'Istruzione Azzolina. Nessuno del comitato tecnico scientifico e tantomeno qui al Ministero ha mai immaginato di chiudere gli studenti dentro cabine di sicurezza, come è stato invece raccontato in queste ore, in maniera diciamo quantomeno superficiale. Ho visto immagini surreali di ragazzi chiusi dentro a strutture simili a gabbie. Questa è disinformazione. Nessuno ha mai pensato a cose del genere. E parliamo di violenza sulle donne, che naturalmente non è mai diminuita, anzi durante il lockdown, anche se è parlato dell'allarme per tante richieste di aiuto di donne anche che non riuscivano tra l'altro a farlo personalmente, costrette in una convivenza forzata, e comunque se ne deve continuare a parlare, anche se questa è punta dell'iceberg, perché naturalmente non c'è modo di sapere di tutto quello che succede all'interno delle case, delle mura domestiche. Questa è una notizia che arriva dalle agenzie. Un uomo di 40 anni è stato sottoposto alla misura di sorveglianza speciale dal Tribunale di Milano su richiesta della Questura di Varese per aver brutalmente picchiato e minacciato di morte la moglie, colpendola a morsi, calci, pugni e facendola sbattere la testa contro il muro fino a fratturarle il naso, e poi l'ha costretta a pulire sul pavimento il sangue che aveva perso. La donna, approfittando di un attimo di distrazione del marito, è riuscita a fuggire da casa. I vicini, che l'hanno vista scappare per le scale condominiali ricoperta di sangue, hanno chiesto aiuto alla Polizia di Stato, che ha messo in salvo la donna e ha attivato il codice rosso. Per chiudere lo sport con il calcio, il Consiglio federale della FIGC approva la delibera per il piano B per il calcio maschile in caso di nuovo e definitivo stop al campionato di Serie A. Con 18 voti a favore e 3 contrari, passa la proposta del presidente Gravina, sia i play-off e play-out, se ci saranno le date utili per disputarli. Se invece non ci fosse tempo sufficiente, si farebbe ricorso a un algoritmo che poi cercheremo di farci spiegare. Mentre il Consiglio federale odierno ha deciso per la chiusura delle competizioni sportive 2019-2020 del calcio femminile. Per la definizione della classifica finale, la divisione dovrà applicare gli stessi criteri correttivi validi per i campionati professionistici maschili. Bene, direi che con questo si chiude questa prima parte della puntata per proiettarci verso gli approfondimenti con gli ospiti tra pochissimo, dopo la viabilità. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp. C'è per esempio questo ascoltatore, Claudio, che dice: buonasera, la fiducia prospettata da Zingaretti su cosa si dovrebbe basare? Su continui annunci dal libro dei sogni di questo governo? La fiducia si conquista con i fatti, non con le parole, eccetera, eccetera. Tra poco ne parleremo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tante le notizie, in buona parte ve l'ho riassunta nella prima parte della puntata come sempre. Adesso cominciamo invece ad addentrarci in alcuni temi, in particolare con gli ospiti. Mentre per i vostri messaggi potete continuare a scrivere sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure i SMS e i WhatsApp, in particolare al numero 349-238-6666. Avete sentito poco fa la voce della ministra Azzolina a proposito dell'ipotesi di cabine di plexiglass per i ragazzi, per studenti e studentesse da settembre. Lei ha negato nel modo più assoluto, ha parlato di disinformazione. Marcello dice: se la ministra non vuole disinformazione, che dia lei e dia per una volta per tutte un'informazione chiara, che non esca una sequela di ipotesi, che in effetti insomma può essere anche ragionevole. Adesso approfondiamo la pagina politica. Io credo siamo giunti a un momento davvero cruciale, nel quale si giocano i destini non solo di una legislatura, ma del futuro dell'Italia. Sono pienamente consapevole dei pericoli che ci sono, ma il mio giudizio, lo voglio dire subito, è fiducioso e dobbiamo chiamare il Paese a ricostruire fiducia. Come sentivate all'inizio, il segretario del PD Zingaretti, questo è certamente un periodo cruciale, estremamente cruciale, in cui si decide il destino non solo appunto del governo, come ha detto lo stesso Zingaretti, anche del Paese. Zingaretti ha parlato della direzione del PD che si è tenuta oggi e soprattutto la sua è stata una sollecitazione al Presidente del Consiglio Conte affinché si agisca presto nel rilanciare l'economia per risollevarla da questa crisi gravissima conseguenza del coronavirus. E questa, che si sta chiudendo, è stata una giornata particolarmente vivace, febbrile dal punto di vista politico, non solo perché ci sono in corso, appunto, non so se è ancora iniziato, un vertice di maggioranza, poi ci dovrebbe essere la riunione dei ministri dei 5 Stelle, la riunione del centrodestra per parlare delle candidature per le regionali, che ci dovrebbero essere a settembre, ma anche e soprattutto perché Colao, il capo della task force per la ripartenza, su questo saluto la nostra Emilia Patta del Sole 24 Ore. Cara Emilia. Sì, buonasera. Ciao Emilia. Allora, Colao oggi, sul quale si è fatta un po' di ironia nelle ultime settimane, dov'è? È sparito, sta lì in Gran Bretagna, che ci fa? Non doveva tirar fuori qualcosa di costruttivo, di progettuale per il nostro futuro? Oggi ha consegnato a Conte un documento piuttosto cospicuo, il piano per la fase 3, e sono macro settori, vanno dall'istruzione alle infrastrutture, ai trasporti. Le opposizioni in un primo tempo avevano chiesto che non fosse un piano segreto, no? Perché era semplicemente uscita la notizia che aveva presentato questo piano, lo aveva consegnato nelle mani di Conte, però non erano usciti i temi in particolare. Invece poi, Emilio, ho visto una sequela infinita di anticipazioni, no? Il testo è circolato tra i giornalisti e anche le agenzie ne hanno dato conto, insomma, ce le hanno le redazioni. Sono 120 pagine con 100 progetti per la ripartenza, anche piuttosto dettagliati. E, insomma, sono un po' i temi su cui queste commissioni che hanno lavorato anche in passato insistono da tanti anni, no? Quindi la sburocratizzazione, la celerità della giustizia civile, gli aiuti alle imprese, sì, infatti vedo sul carico fiscale, imprese, lavoro, guardo consigli specifici sulla ripartenza del dopo Covid. Ad esempio dice che è necessario rimandare gli acconti delle tasse di quest'anno per tutti, insomma una serie di consigli anche nello specifico del Covid. Però è un piano che tende ad approfittare di questa enorme massa di denaro che dovrebbe star per arrivare dall'Europa per sanare un po' delle deficienze strutturali del nostro sistema economico e della pubblica amministrazione, no? Quindi digitalizzazione, però è un piano insomma piuttosto ben strutturato, siccome si dice che tra Conte e Colao non corra buon feeling, no? Perché sì, perché lui si aspettava da tempo Conte, no, qualcosa di concreto, mi pare, qualcosa fosse di per concreto questo. Però poi non vuole neanche far passare la ricostruzione come un'idea di Colao, no? Vuole comunque fare una sintesi politica. Sembra che Colao gli ha risposto appunto squadernando tutte queste pagine, dire io le idee ce le ho, insomma, no? E quindi le idee ci sono, il problema poi come sempre in questi casi è renderle applicabili, trasformarle in norme, superare la resistenza della nostra burocrazia che è storica, è immensa. Vediamo in questi mesi molte persone non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione di marzo, insomma questo è un paese civile, non se lo può più permettere, però ecco, a elencare le deficienze sono buoni tutti, poi è la sintesi politica che deve tradurle, insomma, anche saltando magari ad esempio sugli investimenti, il codice degli appalti o alcune leggi che rallentano l'iter. Questo ma l'ha detto, no? Colao c'è anche nel suo piano, no? Questa cosa di, sì, di superare il codice degli appalti. Sì. Fare, ad esempio, lui suggerisce di fare una serie di condoni, non solo per l'emersione del lavoro degli immigrati, nero, come già è stato fatto, ma anche dei contanti, che tanto è un'idea di Matteo Renzi nel suo ultimo libro, no? Far emergere i contanti in modo da arrivare ad una società cashless, come si dice, no? In questo modo si combatte l'evasione. Insomma, tutta una serie di suggerimenti che comunque in questi anni non sono del tutto novità, questo volevo dire, sono nel dibattito pubblico da molti anni, insomma, sono le famose riforme strutturali di cui il paese ha bisogno per percorrere, perché noi rischiamo che poi quando arriva la crescita dopo il lockdown, l'Europa va al 6-7% e noi siamo sempre fanalino di coda, insomma, questo rischio non ce lo possiamo permettere. Ed è un po' l'avvertimento di Zingaretti e del PD a Conte in questi ultimi giorni, no? Dice noi non dobbiamo sostituire il governo e tutto, però qua tocca dare delle risposte chiare, risolvere nodi, perché se no non andiamo da nessuna parte. Per esempio, visto che citavi Zingaretti sulle riforme, sentiamo questo passaggio oggi appunto alla direzione del PD. Una riforma fiscale che vada nella direzione del dettato costituzionale o alleggerendo il ceto medio e le parti più deboli della società e pretendendo che chi realizza rocamboleschi profitti dei nostri territori paghi qui le tasse, o chi detiene immensi patrimoni finanziari senza immettere risorse nell'economia reale dia alla collettività ciò che è giusto. Questo, e poi fra le altre cose, Emilia, Zingaretti ha parlato anche dei annunciati stati generali sull'economia di qualche giorno fa di Conte, no? Sentiamo questo passaggio anche. Zingaretti, tempi certi per gli stati generali. Attenzione al rigore, ai tempi certi sull'iniziativa che il presidente Conte ha annunciato e che prenderà il via nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Diciamo attenzione perché ora l'Europa giustamente chiede a noi rigore, programmazione, innovazione e un piano nazionale di ricostruzione serio e adeguato al grande paese che siamo. Non possiamo sbagliare perché ne va del futuro di intere generazioni. Quindi non si può sbagliare, giustamente dice qui, bisogna andare dritti, come dicevi anche tu Emilia, insomma, alle riforme, alle questioni concrete, stringere i tempi, perché il tempo in questo momento, in una situazione così di gravissima crisi, è fondamentale, no? Che ci siano tempi stretti. All'interno della maggioranza, il partito di Renzi, di Italia Viva, dice per voce di Maratin, che sentiremo tra poco, sì, noi ci saremo a questi stati generali, ma insomma sono piuttosto scettico, ha detto Maratin. Premesso che il Presidente del Consiglio ha piena legittimità a introdurre tutte le forme di discussioni che vuole, del nostro dovere, diciamo, parteciparvi e dare il nostro contributo. Detto ciò, io un po' di scetticismo ce l'ho, primo sulla forma, cioè io credo che le grandi riunioni sotto i flash dei fotografi, soprattutto se organizzate in pochi giorni, non portino mai alla sostanza, portino sì molto alla forma ma poco alla sostanza. Emilia, quando dovrebbero esserci questi stati generali? Tu che sei addentro, hai saputo se c'è una data, se insomma si tratta di pochi giorni? L'idea era quella di farli giovedì, venerdì e sabato qui a Roma, a Villa Pamphili, all'aperto, in modo da poter andare di persona. Solo che è proprio in corso, mentre parliamo, una riunione di Conte con i capi delegazioni della maggioranza proprio su questo tema. Lui ci tiene, una volta annunciati, a farli nei tempi detti, però non è escluso che slittino di qualche giorno, perché lo scetticismo di Italia Viva è lo stesso del PD, insomma il motivo per cui Franceschini venerdì scorso nella riunione si è arrabbiato con Conte dicendo: ma come ti viene in mente di annunciare, no, dei stati plenari per la ricostruzione senza consultare gli alleati? Non è che si ricostruisce un paese con tre giorni, non possiamo presentarci alle parti sociali con una paginetta di titoli, sono cose che vanno studiate bene. Quindi insomma c'è molto questo braccio di ferro. È chiaro che Conte ha voluto un po' accelerare, ha avuto quest'idea anche per avere un risalto mediatico, per intestarci oltre alla fase 1 e alla fase 2, che è stato molto presente, anche la fase della ricostruzione. Però ecco, in queste ore sta facendo i conti con gli alleati, perché non è un governo di coalizione. Conte, come sappiamo, ha ancora una buona popolarità, ma non ha un suo partito dietro, tanto che anche il Movimento 5 Stelle è rimasto spiazzato da questo annuncio, no? Di Maio pure era un po' scettico nei giorni scorsi. Quindi diciamo che politicamente in questi giorni sta accadendo che Conte è finita un po' l'era, se vogliamo, dell'uomo solo al comando dell'emergenza. Conte si è dovuto riscendere, sedersi al tavolo, e le decisioni che verranno prese nei prossimi giorni saranno più collegiali, più condivise. Sia insomma all'interno della maggioranza, sia le opposizioni con Meloni e Salvini in particolare, che chiedono da tempo maggiore coinvolgimento. Questo è un punto, ad esempio, un altro punto che divide Conte dal PD, perché Conte è molto restio a coinvolgere l'opposizione, anche perché con Salvini ci fu quella famosa rottura, no? Lui non vuole. Drastica. Invece il PD insiste nel coinvolgere il più possibile le opposizioni, perché la preoccupazione è quando arriva l'autunno, diciamo così, e la crisi comincia a pesarsi con la perdita di posti di lavoro, è bene avere un'opposizione collaborativa piuttosto che una posizione con una frontalmente contro, no? Quindi c'è anche questa divisione. Il PD vorrebbe un maggior coinvolgimento delle opposizioni nelle scelte fondamentali per la ripartenza del paese. Comunque vedremo poi. Al momento dovrebbero essere confermati nel weekend, però diciamo così che sono un po' ridimensionati questi stati generali. Diventa l'inizio di una fase di ascolto, ecco, mettiamola così. Vedremo poi come si declinerà anche poi nei prossimi giorni questo piano di Colao, che appunto dalle opposizioni chiedono di illustrare poi in Parlamento. Grazie intanto alla nostra Emilia Patta. Grazie Emilia, buon lavoro. Oggi il motore del Made in Italy può ricominciare a correre, e siamo qui oggi a firmare insieme un vero e proprio patto, il patto per l'export, che ci lega a precise responsabilità ed impegno reciproco. Uno strumento che recepisce le richieste di cui ci avete reso partecipi e che hanno ispirato una nuova strategia per l'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo. L'avete sentito, il ministro degli esteri Di Maio, che oggi, quindi prima parlavamo del piano Colao, il ministro Di Maio ha lanciato un piano per l'export italiano, per rilanciarlo, per contribuire all'uscita dalle secche di questa crisi da coronavirus. Un patto che è stato firmato alla Farnesina, quindi al ministero degli esteri, con appunto la regia del ministro Di Maio, che metterà questo piano a disposizione delle imprese risorse per circa poco meno di 1,5 miliardi di euro. Il patto per l'export tra pubblico e privati arriva tra l'altro a pochi giorni dall'avvio degli stati generali dell'economia, di cui parlavamo poco fa, chiamati a elaborare soluzioni per la ripartenza dopo questi lunghi mesi di lockdown. Per Di Maio è molto importante anche la formazione e informazione, perché il piano prevede il ricorso per esempio a un temporary export manager e digital manager, cioè a due manager che temporaneamente possano assistere le aziende nei processi di innovazione e internazionalizzazione. Però di questo argomento voglio parlare con chi se ne intende, con Luisa Todini, che è notissima imprenditrice, che tra l'altro ha ricoperto tanti incarichi importanti, da consigliera dell'amministrazione della RAI, di consiglio di amministrazione della RAI, alla presidenza di Poste Italiane, ed è attualmente presidente del comitato Leonardo, che assegna ogni anno un premio alle eccellenze italiane che esportano e che diventano ambasciatrici del Made in Italy nel mondo. Luisa Todini, buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti voi e grazie. Che ne pensa di questo piano lanciato per questo patto per l'export di Di Maio oggi? Di cosa hanno veramente bisogno le imprese, le eccellenze italiane, piccole e grandi, per essere finalmente di nuovo, dopo questa lunga crisi, rilanciate verso il mondo? Beh, certamente un grande applauso per aver consolidato il Made in Italy come essenziale e centrale per parlare di Italia. Il 95% delle nostre imprese sono piccolissime aziende, ma la maggior parte di queste focalizzate verso l'esportazione. E quindi è fondamentale parlare di un Made in Italy e rafforzare il Made in Italy in questo 1.4 miliardi che, ricordo, devono essere un grande moltiplicatore, perché in epoca di lockdown si stima una perdita di 30 miliardi circa di export. Ecco, devono essere messe al centro per rafforzare le imprese nel loro territorio, perché non si può essere forti all'estero se non si è forti nel proprio paese. Quindi questo è fondamentale. Per portare la bandiera dell'Italia all'estero bisogna essere forti in Italia e poter raccontare al meglio il nostro territorio e le nostre eccellenze. Io ho condiviso gran parte di ciò che ha detto il ministro e ovviamente tutto ciò che è stato messo in campo. Una piccola nota, ma quasi in forma di provocazione: il ministro nel suo discorso ha detto dobbiamo reinvestire sul brand Italia. Ecco, non c'è bisogno di investire sul brand Italia, perché il Made in Italy Italia è già un brand in sé, di questo dobbiamo esserne consapevoli. Quindi naturalmente è una critica che non è una critica in qualche modo, ma è anzi è una presa di consapevolezza di quanto il Made in Italy sia ricercato. Chi investe in Italia consuma Made in Italy, quindi bisogna riuscire anche ad attrarre ancora di più e consolidare gli investimenti dall'estero e soprattutto dobbiamo fare in modo che ci sia sempre maggior consapevolezza di quanto noi siamo in grado di raccontare il nostro territorio. Chi acquista Made in Italy, che sia un manufatto, che sia degli occhiali, che sia fashion, che sia food, non acquista solo quell'oggetto, acquista qualcosa che racconta cultura e territorio, quindi è un qualcosa di assolutamente inimitabile, che ha in sé una genia leonardesca, da cui parte proprio il nome del nostro comitato. Mi faccia ricordare che le imprese del comitato Leonardo cubano oltre 360 miliardi di fatturato con un 56% di export, quindi sono numeri importanti, ed è per questo che noi, insomma, i nostri soci fondamentali sono Confindustria Edice, e noi rappresentiamo, come lei ha detto, con il premio che viene consegnato alla presenza del Presidente della Repubblica ogni anno, proprio l'eccellenza dalla piccola alla media alla grande impresa. E speriamo, insomma, che continui a diventare grandi nel mondo. Senta, per chiudere, Luisa Tudini, la ministra Bonetti per la famiglia e le pari opportunità ha detto oggi: una ripartenza economica non può prescindere dal coinvolgimento della popolazione femminile. In più, una notizia di oggi è che il ministro per il Sud Provenzano oggi ha deciso di non partecipare a un confronto organizzato con sindaci ed esperti per discutere della ripartenza dopo la pandemia, perché a questo tavolo virtuale sono stati invitati soltanto uomini a partecipare. Ha detto: il punto che più di discriminazione mi pare che sia, ha detto Provenzano, una vera e propria rimozione di genere. Come commenta? Allora, guardi, io parto dalle competenze e siccome nel genere femminile ci sono tante competenze, arrivo a dire che devono essere ascoltate anche le competenze femminili. Io non credo che si debba mettere intorno a un tavolo uomini e donne solo per fare parità di genere, ma per sottolineare le competenze. Quindi sono d'accordo, ma d'accordo nel senso che cerchiamo le competenze, e nell'ambito femminile ce ne sono tante, quindi bisogna andare a cercare laddove si possono consolidare effettiva possibilità di meritocrazia. Da questo punto di vista però vorrei sottolineare che la legge sulle quote rosa in oltre 10 anni ha portato ad un aumento di oltre il 30% nei consigli di amministrazione di presenza e quindi è andata ben oltre quello che si immaginava, e come strumento transitorio le quote sono fondamentali ed è servita. Lei ha citato due ministri, mi faccia citare un terzo ministro che secondo me oggi è stato estremamente importante, cioè il ministro di Pisano per l'innovazione. Sì. Che ha ricordato un digital divide importante in Italia, Paola Pisano, e anche quanto le nostre piccole e medie imprese hanno ancora un gap nelle vendite digitali, partendo soprattutto da quella che è la mancanza di una banda larga ancora così diffusa in Italia. A me è sembrato estremamente importante quello che lei ha detto e anche quello che si sta mettendo in campo, quindi digitalizzazione, innovazione, sostegno al Made in Italy, quindi col rafforzamento delle aziende del nostro paese che possono esportare, devono andare assolutamente di parità, bene, di pari passo. Se questo lo si può fare con tante teste femminili, naturalmente sono felice. Crediamo allora con tanta forza in questa ripartenza di pari opportunità per tutti da ogni punto di vista. Grazie Luisa Todini, grazie e buon lavoro. Serata, buona serata. Lavoro, grazie. Buona serata. Piccola pausa di riflessione, come sempre a questo punto, vedo l'Austria, una notizia di pochi istanti fa, l'Austria prospetta un'apertura del confine con l'Italia a breve, per il momento a breve, ci sentiamo a breve anche noi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete dal primo giorno della settimana al posto giusto, nel momento giusto, sempre con voi Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, immancabilmente, per darvi a fine giornata un quadro il più possibile chiaro, esauriente, le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero e poi gli approfondimenti da fare insieme agli ospiti. Intanto vedo Francesco che scrive i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o i WhatsApp al 349-238-6666. Dice: speriamo che l'export, di cui abbiamo appena parlato con l'imprenditrice Luisa Todini, nonché presidente del comitato Leonardo, e abbiamo sentito il patto firmato oggi da Di Maio per l'export del Made in Italy, dice Francesco, speriamo che l'export non sia visto come l'unica panacea di tutti i mali. Se non ripartono i consumi interni la situazione potrebbe precipitare, ma per farlo servono precise strategie che al momento non si vedono, e di qui il piano Colao e tutto il resto, insomma, di cui abbiamo parlato fino adesso. Invece adesso ci concentriamo su una inchiesta, il caso dei camici sanitari della Lombardia. La Procura di Milano ha aperto nel pomeriggio un fascicolo conoscitivo, al momento senza ipotesi di reato né indagati, sulla vicenda della fornitura di camici nel pieno dell'emergenza Covid da parte della Dama SPA, che è la società di cui la moglie del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana detiene una quota e che è gestita dal cognato. Il caso, e qui saluto la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore, ciao Sara. Ciao, buonasera. Il caso è stato sollevato dalla trasmissione della Rai Report, Fontana aveva annunciato querela, insomma non si è capito se questi camici sono stati venduti o donati. Molto in sintesi, Sara, ci spieghi la vicenda, che cosa c'è in ballo, insomma, adesso con gli ultimi aggiornamenti. Io lo definirei un grosso pasticcio che, ahimè, è uno dei tanti che abbiamo visto in questa fase, soprattutto in questa fase 2, la Lombardia ha avuto un po' di problemi a gestire una serie di attività, tra cui appunto il recupero dei dispositivi. In questo caso non si tratta di mascherine o di tamponi, si tratta di camici e di cuffie, tutto quel materiale, diciamo, l'abbigliamento. Per medici, infermieri, per operatori sanitari, insomma. Sì. No? Allora, ricordiamolo, insomma, lavora anche dei colleghi, è stata anticipata dal report, a sua volta l'anticipazione è stata fatta su carta dal Fatto Quotidiano, che ha presentato oggi il contenuto parziale, insomma, di quello che sarà la puntata poi di stasera, e già su questo poi è stata fatta una querela, e però è stata appunto aperta anche un fascicolo, come giustamente ricordavi, al momento conoscitivo, senza indagati e senza reati, ma comunque con un approfondimento da fare da parte degli inquirenti di Milano. In cosa consiste? Da quello che sono riuscita a ricostruire, in una fase di emergenza, quando era difficile ritrovare tutto il materiale, è stata fatta una manifestazione di interesse da parte della regione, in particolare della centrale acquisti Aria, per capire quali aziende fossero sul mercato e quali fossero in grado di dare repentinamente il materiale. Quindi si tratta non di una gara, lo ripeto, ma una manifestazione di interesse che sarebbe giustificata quindi per l'approvvigionamento, che vuol dire che in una fase in cui la gara non si riesce a fare per una questione di tempi, ma nello stesso tempo c'è bisogno da parte, c'è una certa urgenza pubblica, insomma. Sì, bisogna reperire tutto quello che c'è sul mercato e però prendere e comprare a tutti. Quindi bisognerà capire se è stata fatta un'acquisizione o a questo punto donazione, poi lo chiariamo, soltanto da un'azienda oppure da tutte, perché se effettivamente questa società che si chiama Dama SPA e che ha il suo abbigliamento marchiato Pole Shark, che mi dicono abbastanza noto negli ambienti, è stato acquisito in modo esclusivo, è stato fatto, diciamo, un accordo comunque in via esclusiva, oppure era fra le tante, perché se era fra le tante già assume la questione un connotato diverso. La società Adama SPA ovviamente solleva una questione di potenziale conflitto di interessi, perché è partecipato al 10% da una società riconducibile alla moglie, Attilio Fontana. Roberta Dini, sì, esatto, al governatore Attilio Fontana, e il resto, il 90% delle quote, sono all'interno di una scatola finanziaria che, così scriveva il Fatto, ha una base in Svizzera e che ha però la proprietà, e che la proprietà, cui proprietà è di Andrea Dini, quindi il cognato di Attilio Fontana, fratello della moglie. La fornitura è stata fatta su pagamento, sì o no? Allora, ecco, questo è l'interrogativo su cui, no, è stato aperto poi questo fascicolo, esatto, d'inchiesta. Esatto. Venduti o donati? Però lo ripeto, il caso, anche il caso in cui fosse stata acquisita, sarebbe nettamente diverso se ci fosse stato un approvvigionamento da tante aziende, tra cui la Dama, oppure soltanto la Dama. Chiaramente si crea un problema. Ma torniamo alla fattura. È stata fatta una donazione oppure no? Una volta sentito, ascoltato dai giornalisti, che vedremo in trasmissione, Andrea Dini parlava del fatto che questa richiesta è arrivata all'azienda quando lui non era presente, quindi si è creato un equivoco, si sono capiti male, è stata emessa una fattura, quindi 500.000 euro circa, ma dopo 40 giorni, una volta capito l'equivoco, l'errore, è intervenuto e ha cancellato la fattura in modo che fosse una donazione. Una donazione. Diciamo, malizia della trasmissione dei giornalisti solleva il caso che questo errore sia stato scoperto proprio quando era in corso l'inchiesta di Report. I giornalisti si sono palesati, hanno fatto approfondimenti, hanno fatto domande. E allora lì ci sarebbe stato questo storno, questo cambio, insomma, di direzione. Quindi, Sara, a questo punto bisognerà vedere che cosa emerge da questa indagine della Procura di Milano, no? Quindi questi sono i fatti, capiamo nei prossimi giorni che cosa viene fuori. Qui ci dobbiamo proprio lasciare. Intanto grazie di tutta questa ricostruzione piuttosto articolata la nostra Sara Monaci. Ciao Sara. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi. Nino scrive al 349-238-6666. Ciao Roberta, dopo mesi il mio lavoro riprende, quindi sono felice per Nino, e così l'ascolto in auto della tua trasmissione mentre torno a casa, una sana abitudine, certamente direi sanerrima questa abitudine, ascoltare Effetto Notte tutte le sere, un vero toccasana. Allora, adesso ci colleghiamo con gli Stati Uniti, perché ci sono tante cose da aggiornare, anche se sempre molto in sintesi. Abbiamo il nostro Marco Valsania da New York. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Marco, la morte di George Floyd, l'afroamericano di 46 anni che sappiamo morto per soffocamento con il ginocchio schiacciato sulla gola da un poliziotto, che oggi dovrebbe essere apparso per la prima volta in tribunale e appunto incriminato per omicidio volontario, altri tre poliziotti sappiamo che sono in carcere, diventa però sempre di più la morte di Floyd una vicenda di risonanza internazionale, no? Perché ci sono stati disordini in Gran Bretagna, ha condannato anche la Francia, ha condannato il razzismo, la stessa Merkel nei giorni scorsi. Quali sono le novità di oggi? So che i democratici, per esempio, sono rimasti nel Parlamento americano in ginocchio per 8 minuti al congresso, giusto il tempo in cui è stato schiacciato il collo di Floyd dal poliziotto, e adesso chiedono i democratici una riforma della polizia e della giustizia. Sì, come dicevi, appunto, è stato un episodio, quello dell'uccisione di George Floyd, che ha trovato eco a livello internazionale, perché il problema del razzismo, dell'ingiustizia e della discriminazione sistematica, sistemica, non sono solo statunitensi, ma sicuramente negli Stati Uniti ha un eco particolarmente, particolarmente profondo. E a questo punto il movimento di protesta, come ricordavi, ha trovato anche una sponda, o sta cominciando a trovare delle sponde politiche. Non necessariamente tutte le domande dei dimostranti vengono accolte e rilanciate, ma oggi sicuramente c'è stato un movimento su questo fronte. La leadership democratica ha proposto una riforma della polizia, la prima dopo molti decenni, che raccoglie alcune delle istanze del movimento di protesta. In particolare chiede il divieto di pratiche di soffocamento, di di tipo di tattiche di polizia che appunto hanno, come quella che, hanno pro, che ha provocato la morte, l'uccisione di George Floyd, riduce le protezioni degli agenti accusati, protezioni legali degli agenti accusati di violenze, di abusi ai danni delle persone, ai danni dei sospetti. Tra l'altro, perdonami se ti interrompo, Marco, a questo proposito, certo, vedevo un articolo del Washington Post che dice che la polizia americana dal 2015 a oggi ha ucciso con le armi da fuoco quasi 1000 persone l'anno, dal 2015 5.400 vittime, al di là che siano afroamericani, bianchi o altro. In massima parte si tratta di afroamericani che sono molto più frequentemente vittima soprattutto della, oltre che essere molto più frequentemente incarcerati, rappresentano un terzo della popolazione carceraria americana e sono il 13% della popolazione gli afroamericani, ma anche in termini di vittime della polizia. E quindi questo è un altro degli elementi che appunto dimostrano il livello di razzismo sistemico, cioè che non è la questione del singolo agente, della bad apple, no? del singolo agente cattivo, un po' di una cultura, ma che insomma, c'è un problema di fondo, di cultura, di militarizzazione della polizia che è avvenuta nel corso degli anni, diciamo attraverso trasferimenti di armi sempre più letali a suo vantaggio, attraverso un sistema di giustizia che adesso appunto cercano di riformare i democratici. Non si sa con quanta fortuna, perché ricordiamo che Trump è contrario e la maggioranza repubblicana è contraria a questa riforma. È più forte. Della polizia, Marco, a proposito di Trump, vedevo dai sondaggi, questa è una notizia che spicca oggi, che il suo rivale democratico per le presidenziali a novembre 2020, Biden, sarebbe avanti di 14 punti. È una cosa storica al momento, anche se parliamo di sondaggi al momento comunque. Sì, è l'ultimo sondaggio di CNN in particolare che dà il distacco più forte a vantaggio di Biden, 14 punti. Ricordiamo che a questo punto della campagna elettorale nel 2016 Hillary Clinton, che poi perse, era in vantaggio ma solo di 4 punti e mezzo. Ora, la media dei sondaggi è un po' inferiore a quella a questo sondaggio di CNN, ma comunque dà quasi 8 punti di vantaggio a Biden. Ecco, si tratterà di vedere se questo tipo di vantaggio reggerà nei mesi, perché siamo ancora a diversi mesi dalle elezioni, ma sicuramente è un segno preoccupante che preoccupa anche i repubblicani, in parte. Alcuni infatti si stanno smarcando da Trump, alcuni per questioni di principio, altri per diciamo, lasciare paura la nave elettorale nel momento che sta affondando. Grazie Marco Valsani, appunto ci sono ancora tanti mesi davanti, vediamo come si procede. Trump però ha detto che la CNN ha notizie false, sappiamo che ha un rapporto un po' particolare insomma con i media. Grazie Marco Valsani da New York, un abbraccio. Ciao Marco. A voi. Ciao. Invece con il nostro Dario Ricci, che saluto, caro Dario, bentornato. Eccoci, bentornato. Tra l'altro abbiamo dedicato una bellissima puntata ad Olimpia, domenica, proprio a questo tema, i campioni dello sport statunitense alle prese esattamente col caso George Floyd. Quindi scaricate il podcast. Sempre questa estremamente progresso. Sul pezzo il nostro Dario Ricci. Allora, visto che sei sul pezzo, parliamo di calcio maschile alle prese con gli algoritmi e di calcio femminile, che invece per il quale non c'è nessuna ripartenza. Eh sì, è proprio così. Diciamo che il Consiglio federale di oggi ha messo a punto il piano B e anche il piano C, no? Perché siamo di fronte alla ripartenza questa settimana, venerdì e sabato semifinali di ritorno di Coppa Italia, il 17 giugno la finale a Roma, dal 20 torna alla Serie A, però chiaramente l'obiettivo è quello di portare a termine il campionato entro il 2 agosto con tutte le 38 giornate e le 12 quindi che mancano. Non fosse possibile, ha deciso il Consiglio federale, e a causa di un nuovo stop ci sarebbero allora i play-off e i play-out, sempre che ci fosse il tempo per disputare. Anche in quel terzo caso, ed è questo il piano C, non ci fosse neppure quel tempo, allora ecco il ricorso al famigerato algoritmo che definirebbe la classifica, cioè le squadre che farebbero le coppe europee, le retrocesse, ma in quel caso, perché non verrebbe rispettato il criterio sportivo, no? Non verrebbe assegnato neppure il titolo. Quindi insomma, un po' complesso questo algoritmo. Sì, un po', diciamo, no, l'algoritmo è il piano C, è l'ultima parte, diciamo è un piano ben strutturato, perché si gioca, altrimenti ci sono i playoff e i playout, altrimenti l'algoritmo, quindi è semplice, si può capire. Quello che non si facciamo capisce, così, sì, o che meglio dispiace, perché non può partire il campionato femminile, ma questo un po' perché l'hanno anche un po' voluto le stesse giocatrici, nel senso che una posizione era stata trovata rispetto alle 12 squadre, c'era stata la proposta di far dei playoff con le prime sei in classifica. Le giocatrici hanno detto, diciamo, no, o ripartiamo tutte o non riparte nessuna. Devo dire senso che di unità, insomma, sì, no? Però quindi, in questo senso è una presa di posizione che non mi trova concorde, cara Roberta, perché in questo caso secondo me era importante esserci, perché pensa, oggi proprio è un anno dall'inizio di quel mondiale francese che abbiamo ci ha fatto sognare e quindi in questa situazione difficile più si è duttili, più in questo momento era importante esserci in campo per avere un minimo di spazio, un minimo d'attenzione. Adesso c'è una situazione un pochino più difficile e speriamo che quell'eredità del mondiale francese, causa chiaramente soprattutto la pandemia, però non si disperda del tutto. Io sarei scesa in campo, fossi stata una giocatrice. Potevi anche consigliarglielo prima tu, no? Invece di dirlo poi a questo punto a me io qua. Te l'avevo detto a te, sarei tu che dovevi poi ridirlo a loro. Ecco, la prossima volta ci organizziamo appunto, meglio. Appunto, cerchiamo di coordinarci. Qui si parla tanto di task force, di coordinamenti eccetera, poi non ci coordiniamo tra di noi. Cazzo, benissimo. Il piano Giordano per salvare il calcio femminile. Giordano Ricci. Senti come suona Ricci, bene. Giordano, mi piace, suona molto bene. Grazie caro Dario Ricci. Ciao, a presto Dario. Aggiorniamo a momenti.